e il benvenuto a tutti voi. È bello avere di nuovo tanti amici in questa casa. Sapete? Tanti amici. Sapete? Tanti amici in questa casa. Siamo tanti amici. Sapete? Siamo tanti amici in questa casa. È bello avere di nuovo. Siamo tanti amici. Beh, sapete? Tanti amici. Sapete? Tanti amici in questa casa. Amici.